Ha! Seguimi, sciogliti, balla e muoviti. La locanda 100% tre uomini. Zinigas, cioccolato bianco, frutti d'oro, Sardegna. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Muovi la testa, rimbalza, gustati questa fragranza. Riduci la tua distanza, stando tra gente che danza. Vieni qui e siediti in piazza, ascolta, riempi la tazza. Qui dove il tempo non passa, bevi con chi più ti rilassa. Qui la gente è poca rimasta, crede che sia tutta una farsa. Gente che non segue la massa, ma segue il rullante, la cassa. Buttati alle spalle i problemi e lo stress. Esprimi musica col corpo, come la breakdance. Come il ritmo dello scratch, come metriche del rap. Come l'armonia dello spray sulle locomotive. Aio, nevo. La tua energia sputala fuori. E fottitene se l'hip hop ha visto anni migliori. La festa è cominciata con gli schenfi e coi liquori. E i breaker si sfidano a terra tipo gladiatori. Cioccolato rap a tempo sopra i battiti dei cuori. E coi dovuti modi porta quattro quarti e quattro mori. Sciogliti, muoviti, che qui non hai altra scelta. Zicchi, nicca, cricca coi suoni della caverna. Ringrazio quella gente che com'è stata stupenda. L'hip hop entra solo nel cuore di chi lo c'è. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Metti cuore e anima in tutto quello che fai. Sai che perdi troppo tempo quando ti distrai. Per chi pensa che sia tutto donne nude sugli sdrai, io penso che lo spirito sia quello di Wildstyle. Col DJ sull'hi-fi, l'MC che fa freestyle. Con i breakers e i writers con le bombolette spray. Questo fuoco non lo spegnerai. Se ti serve benzina, noi siamo tre benzinai. Roba fatta per i buon gustai. Gente merda rap, bombo clat, legalize. Da sempre, Tiki, Nika, Marco, Luca e Peppe. Con la gente che sta sotto il palco e si diverte. Tre uomini, tre, tre, istinto valente. Con la merda che fa andare il culo lentamente. Questa è la Sardegna, nevo, non il continente. Quattro quarti buoni, quattro mori con le band. Roba che non vende, che non serve a niente. Perché il mercato dei dischi dice che è scadente. Ma la gente mente, ascolta ma non sente. Prende tutto per buono, basta che segua la corrente. Aio, nevo. Sulle mani tutti insieme. Non è roba per vendere, è roba per stare bene. Per tutta la gente che ci segue sempre viene. A tutti i concerti per ridere, urlare bene. Lo sai perché lo faccio anche se non mi conviene. Perché di questa merda ne ho troppo le palle piene. Di tutti questi rapper pieni di piscio e catene. E chi gli lecca il culo li sta presso e li sostiene. Il fatto è che la gente esagera e non si trattiene. E parla pambera di qualcosa che non gli appartiene. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Studia, impegnati, dai sempre il meglio di te. E ricordati che nella vita niente è facile. Io te lo dico perché qui c'è gente come me che col rap rappresenta la Sardegna ad ogni gem. Tres hominis.